nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornate, bentornati a Nessuna è Perfetta. Oh, a forza di dirlo, sono 5 anni che cominciamo questa trasmissione ogni domenica ricordando che il multitasking è una fregatura. Ebbene, a forza di dirlo, c'è anche chi a questo tema ha dedicato un libro. Ma sì, Chiara Cecutti, che ha appena scritto Multitasking, no grazie, da perfetta tutto fare a felice imperfetta. Perché, e questo è il punto, siamo imperfette, prendiamoci così come siamo, se si può miglioriamo da qualche parte, ma non è detto che appunto si debba essere perfette in tutto. E questo libro, già dal titolo Multitasking, no grazie, diciamo che è perfettamente in sintonia con Nessuna è Perfetta. Ne riparleremo magari una di queste puntate. Intanto invece volevo dirvi che 828 12 12 è sempre il nostro numero per i vostri messaggi vocali, e la volta scorsa ne avete mandate moltissimo. Messaggi su donne e leader, che è il tema di domenica scorsa, e mi farebbe molto piacere che voi continuaste a farci sapere anche chi è la vostra donna significativa nella storia, anche se ne abbiamo parlato la volta scorsa, però è un tema che continueremo a affrontare, a tenere presente in tutte le puntate. Intanto sentiamo i vostri messaggi. Buongiorno, telefono in merito alla problematica delle quote cosiddette rosa. Io personalmente sarei contraria come idea, nel senso che non ci sarebbe bisogno delle quote rosa per far andare le donne in posizioni varie, perché appunto dovrebbe dipendere dal loro merito. Però probabilmente, ascoltando la riflessione anche del vostro ospite, ritengo che in effetti sia da prendere in considerazione quell'idea. Quindi in quell'ottica lì posso essere favorevole alle quote come proprio rottura di equilibrio, laddove non esiste la possibilità per le donne di emergere, e magari in un secondo tempo, una volta che questo equilibrio sia rotto, vada da sé. E quindi credo che le donne abbiano molte capacità. È vero, l'idea delle quote è nata proprio così, per rompere questa barriera, questo soffitto di cristallo o di piombo che sia, che ha impedito per secoli alle donne di mostrare i loro talenti e di trarre vantaggio dalle loro qualità. Buongiorno dottoressa Latella, ho da poco ascoltato la sua piacevole trasmissione e l'interessante intervento del professor Giavazzi. La ragione per cui in Italia c'è poco interesse per le donne ricercatrici è la stessa per cui non c'è nemmeno per i ricercatori uomini, vale a dire l'ignoranza di una grande percentuale di popolazione che negli ultimi decenni è uscita dalle nostre scuole. Credo che varrebbe la pena riflettere anche su questo aspetto. E come no, ci riflettiamo e ci torneremo, anche perché il filone donne scienza qui a Nessuna è Perfetta ci è particolarmente caro, e nelle prossime settimane torneremo a affrontarlo. Invece, di cosa parliamo questa domenica? Di un articolo che ho letto qualche giorno fa sul Guardian, il quotidiano inglese che ha sempre degli spunti interessanti. Il tema dell'articolo che ha attratto la mia attenzione è: il più grande nemico di una donna è la mancanza di tempo per se stessi. Esatto, è proprio così. Il più grande nemico, uno dei nostri più grandi nemici, è la mancanza di tempo che noi tagliamo, no, dalle nostre vite. Abbiamo sempre qualche altra cosa da fare per gli altri e per noi facciamo poco. L'autrice dell'articolo, Bridget Schulte, cita gli esempi, no, della storia, i grandi scrittori, pittori, i grandi medici come Freud, un grande scrittore come Proust, un grande musicista come Mahler. Loro avevano del tempo per loro stessi. E sapete perché? Perché c'erano delle donne che si occupavano di loro, e ovviamente occupandosi di loro lasciavano il tempo della creatività tutto a disposizione dei loro mariti. La moglie di Freud non solo stirava tutte le camicie, cosa che fanno tante mogli, non solo lei lo faceva, ma addirittura arrivava a fargli trovare lo spazzolino da denti già pronto con il dentifricio. Suggerirei come donna Clara Wieck Schumann, cioè la moglie di Robert Schumann, che è stata una grande pianista, una brava compositrice. Grazie, e grazie della radio. La nostra ascoltatrice si riferiva appunto alla domanda che avevo posto la settimana scorsa: chi è stata secondo voi la donna più importante per voi nella storia? Ecco, secondo lei è stata Clara Schumann, e questo va assolutamente d'accordo con quanto scrive il Guardian. La mancanza di tempo per noi stesse fa sì che tutte le nostre energie si disperdano verso gli altri, e non solo non ci occupiamo magari bene delle cose che possiamo fare, che sia il lavoro, che sia un'attività fisica che ci piace, non solo questo, ma appunto spesso non ci accorgiamo nemmeno del talento che potremmo esprimere, distratti come siamo da tante cose. Appunto, Freud poteva dedicarsi alla straordinaria attività di scienziato della mente che l'ha portato a essere il Freud che tutti conosciamo, anche perché sua moglie gli spalmava il dentifricio sullo spazzolino, così non perdeva tempo, poverino. Il nostro tempo è sempre così frammentato, facciamo la spesa e contemporaneamente stiamo al telefono dettando quello che potrebbe essere l'aiuto al nostro figlio più piccolo che sta facendo i compiti. Pensate, un recente studio condotto su 32 famiglie di Los Angeles ha dimostrato che la donna della famiglia, diciamo la mamma moglie, ha 10 minuti, solo 10 minuti di svago. Dopodiché questi 10 minuti si interrompono perché c'è sempre qualcosa che arriva. E siccome noi siamo i teorici del no al multitasking e dunque la rivalutazione di quello che è un po' di tempo per noi, lo facciamo anche pensando che il tempo della lettura è per noi da sempre la lettura di un bellissimo romanzo. Io personalmente non vedo l'ora la sera di tornare a casa, mettermi a letto col romanzo che scelgo. Può essere un giallo, può essere una storia d'amore. Adesso l'ultimo che sto leggendo è Una donna normale, un giallo dedicato a una donna dei servizi segreti, un personaggio romanzesco firmato da Roberto Costantini. Ma insomma, leggere un libro è tempo per noi, è tempo che fa bene, o guardare anche una serie televisiva. Una piccola pausa, torniamo subito. Nessuna è perfetta. E come vi dicevo, questa domenica le Sunday Girl sono due e sono legate a un romanzo che è stato un bestseller mondiale e ha dato vita a una serie, a un filone narrativo apprezzatissimo in tutto il mondo. Dedicarsi del tempo per leggere qualcosa che ci piace o guardare una serie televisiva che ci piace fa benissimo, ed è proprio per questo che noi questa domenica parliamo di Elena Ferrante e del secondo volume, che è diventato anche qui una serie televisiva, La storia del nuovo cognome. Buona domenica, Gaia Girace, Lila Cerullo nella serie che è ispirata alla fortunatissima catena di romanzi di Elena Ferrante, cominciando dall'Amica Geniale, torna in TV con il secondo volume, Storia del nuovo cognome. Gaia Girace è nella serie Lila Cerullo. Lei che insieme all'amica Lenù, interpretata da Margherita Mazzucco, che sarà nostra ospite tra poco, è una delle due protagoniste. per chi ancora non avesse letto la serie di Elena Ferrante, le due amiche, Lila Cerullo e Lenù, sono ragazzine che crescono insieme nella Napoli degli anni 50 e 60. Dunque, tanto buona domenica Gaia Girace. Buona domenica. Il tuo personaggio, quello di Lila, a 16 anni si è appena sposata e l'aver assunto il cognome del marito, cognome Carracci, non ti fa stare bene. È un marito che tra l'altro usa violenza nei tuoi confronti e però tu non ti nascondi, ti fai vedere con l'occhio nero per mostrare a tutti i parenti che cosa ti ha fatto il marito. Un messaggio molto importante di questi tempi. Sì, in realtà la vera violenza è quella. Quando Lila rientra dalla luna di miele, insomma, e la famiglia la vede, ma muta l'omertà, purtroppo. Fortunatamente ora l'omertà è diminuita, la gente parla, le ragazze che subiscono violenza parlano, però a quel tempo non era così. E la vera violenza viene infatti dimostrata dalla famiglia, che la vede e si comporta come se non fosse successo niente. È stata proprio brutta. Certo. Sì. Lila, tra l'altro, lo dico per chi non ha ancora letto il romanzo di Elena Ferrante, è una ragazza brillantissima, con una mente molto vivace. E però stiamo parlando appunto dell'Italia degli anni 50 e 60, nessuno le consente di evidenziare il suo talento. Che cosa ha imparato interpretando questo personaggio, Gaia Girace? Lila in realtà dovrebbe essere un grande esempio per tutti di determinazione, di coraggio. È completamente rivoluzionaria anche per la sua epoca. E deve insegnare a noi tutte donne di non fermarci mai, di non avere paura di niente, di andare sempre avanti e di lottare, perché alla fine il nostro unico limite siamo noi. E quindi lei mi ha dato molta forza e coraggio in tutto. Sono sempre stata una ragazza molto determinata e forte, ma lei me ne ha dato ancora di più. Quindi... Gaia, quanti anni hai? Come sei arrivata a interpretare il personaggio di Lila nella serie televisiva e come gestisci il tuo tempo? Perché qui a Nessuno è Perfetta siamo molto attenti al fatto che si continui a studiare, è fondamentale, rompiamo un po' le scatole su questo. Raccontaci un po' come si divide un po' il tuo tempo, visto che è anche il filo conduttore di questa puntata, il tempo. Allora, io ho 16 anni e vabbè, ho iniziato... recitazione già prima, già volevo diventare attrice, quindi mi ero iscritta a una scuola di cinema e poi dopo pochi mesi mi hanno fatto il provino per l'amica geniale. Sono stati tanti mesi di provini e di casting, ma dopodiché sono stata presa e sono quasi 3 anni ormai che lavoro in questo progetto. E ora sono molto impegnata per la promozione della seconda serie, stiamo andando avanti e indietro, io e Margherita, per vari programmi televisivi, interviste di qua, lo studio che non è mai da sottovalutare. E quindi come ti dividi? Intanto che scuola fai? Come studi? Perché il tempo, insomma, se siete sempre impegnate prima nella recitazione e poi nella promozione della serie, diventa poco. Come lo gestisci? Allora, io faccio il liceo linguistico e in realtà quando studio magari il giorno vado in un programma televisivo, non vado mai a scuola impreparata, magari... non lo sono quanto gli altri, però i professori sanno anche il perché. E chiudono un occhio oppure minacciano la bocciatura? No, minacciano la bocciatura assolutamente, no, mai. Sono sempre mostrati disponibili. Ovviamente sono uguali agli altri, sono un po' più clementi, però comunque devo dare il massimo anch'io. Cioè devo studiare quanto posso, fortunatamente ho anche l'apprendimento veloce. Quindi sei un po' come Lila anche tu, sì, sono sempre stata molto brava in tutto, perché È la determinazione che mi ha sempre portato avanti. Che classe fai tu? Io sono in terza liceo. Quindi hai ancora 2 anni? Sì. E l'ultima cosa che ti voglio chiedere, tra recitazione, scuola, promozione poi delle serie televisive, che cosa resta del tempo per te? Che cosa fai quando hai del tempo per te? Ma in realtà dormo, perché io sono stanchissima e quindi quando posso guardo le serie televisive, insomma cerco di riposarmi un po', di stare un po' tranquilla, perché è un periodo pieno d'ansia, cioè l'ansia, pure quando riposo ho l'ansia, perché non so quando dove mi devo dividere, però sono tanto contenta. Ecco. Tutto il mio lavoro sta dando tante soddisfazioni, quindi sono molto felice. Tra 10 anni come ti vedi? Mi vedo in giro per il mondo, voglio viaggiare tanto e voglio stare in America a recitare. Ah, ho capito, quindi Hollywood attenti che arriva, sì. Gaia Girace. Esattamente. Grazie, buona domenica Gaia, in bocca al lupo per la nuova serie TV dell'amica geniale. Grazie mille, buona domenica, ciao. Benvenuta, buona domenica all'altra protagonista della serie TV dell'amica geniale, Margherita Mazzucco, che è la Lenù, cioè Elena Greco, della serie televisiva e del romanzo di Elena Ferrante. Buona domenica, Margherita. Grazie. Allora, a differenza dell'amica Lila, che poi sarebbe l'amica geniale, che ha un temperamento forte, un carattere anche duro, nel romanzo di Elena Ferrante e anche nella serie televisiva, tu, che sei Lenù, sei più timida. È così anche nella vita? Abbastanza, diciamo che sono abbastanza timida anch'io, solo una cosa che mi differenzia da Elena è il fatto che lei è molto molto seria rispetto a me, diciamo, non che io non sia seria, però diciamo lei è molto molto disciplinata, io diciamo che mi diverto un po' di più. Margherita, chiedevamo prima a Gaia Girace come gestisse il suo tempo, che è un po' il filo conduttore di questa puntata di Nessuno è Perfetta, perché recitate, poi dovreste anche andare a scuola. A proposito, tu che classe fai, in che istituto frequenti? Io faccio il 4° anno del liceo classico. E come si gestisce una 16enne il tempo tra scuola, recitazione, promozione delle serie TV? Come fai? In realtà diciamo mi sostengono molto i miei genitori. Io vado a scuola normalmente, poi se ci sono giorni in cui devo mancare e manco, sono giustificata ovviamente a scuola, e invece per esempio sul set studiavo dopo il set, appunto avevo un professore che in hotel mi faceva lezione, e poi quando ero libera andavo a scuola e mi facevo interrogare. Quindi sei arrivata al 4° anno senza essere mai bocciata? No. Perché insomma ci tieni a prendere la maturità, vorresti andare anche all'università? Sì. Ecco, nella stagione, nella seconda stagione dell'amica geniale, il tuo personaggio, cioè quella di Lenù, va a Pisa per frequentare la prestigiosa Normale di Pisa, una storia ambientata negli anni 60. Allora, frequentare l'università in una città diversa era qualcosa di eccezionale. Tu che università vorresti frequentare? Dove? Ma in realtà non lo so ancora, sono ancora molto indecisa, però mi piacerebbe sia stare a Napoli, ci sono delle ottime università. Beh, sì, la Federico II è straordinaria, sì, certo. Infatti, e ma anche andare direttamente all'estero proprio. Quindi quando è che dovrai prendere questa decisione? Entro quanto? Beh, io sono al 4° anno, quindi ho ancora un anno, diciamo, un anno e mezzo. In un'intervista tu hai detto mai avrei pensato di fare l'attrice, e com'è che è successo allora? In realtà totalmente per caso, io sono venuta a conoscenza dell'amica geniale perché sono venuti dei ragazzi a fare dei casting a scuola e io quel giorno non c'ero, però fortunatamente qualche giorno dopo dei ragazzi mi hanno dato un volantino E io, giusto per curiosità, ho chiesto a mamma, posso fare il provino? E lei mi ha detto, vabbè, vai, l'ha accompagnato e niente, ho fatto questa intervista e poi mi hanno chiamato un mese dopo. Io mi ero totalmente dimenticata di aver fatto questo provino perché chiaramente, non avendo mai fatto recitazione, ho detto, vabbè, non andranno mai a prendere me, ovviamente. E invece poi mi hanno chiamato, mi hanno detto che ero rimasta fra le ultime 10 e sono andata a Roma, ho conosciuto il regista e lì mi hanno detto che mi avevano preso. E com'è recitare per te? Cioè, è stata una scoperta? Pensi che sarà la passione della tua vita o è solo un periodo della tua vita? No, io credo, spero che sarà quello che farò nella mia vita, perché mi si è aperto veramente un mondo. Io non pensavo che mi piacesse recitare, non sapevo di poterlo fare e sono veramente contenta di aver scoperto questa cosa. Io vorrei continuare, sì. Margherita, che cosa succede del tuo tempo libero, visto che mi sembra per ora ce n'è molto poco? Che fai? Come te lo gestisci? Ma in realtà nel tempo libero, diciamo che studio, quindi tanto libero non è, però sto con i miei amici, sto a casa, in famiglia, diciamo che cerco di passarlo in una maniera più normale possibile. Grazie a Margherita Mazzucco, la Lenù della serie L'amica geniale. Le nostre Sunday Girl questa domenica sono appunto due ragazze, due sedicenni, proprio come le protagoniste della serie televisiva che piace tantissimo, così come è piaciuta tantissimo L'amica geniale e tutti i romanzi di Elena Ferrante legati appunto a questo filone. Grazie Margherita e in bocca al lupo, buona domenica. Grazie a voi. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno a Nessuna è perfetta, 828 12 12 il numero per i vostri messaggi vocali. E la domanda che vi pongo, che pongo anche a me stessa, è: ma abbiamo abbastanza tempo libero da dedicare a noi stessi? Ne vorremmo di più? Perché la tendenza è a riempire, almeno parlo per me, ogni secondo, no, della nostra vita. C'è un momento in cui magari si libera l'agenda improvvisamente e lo riempiamo, facciamo subito qualcosa che magari pensavamo di poter rinviare al fine settimana. Fatemi capire se anche voi siete con le giornate che si riempiono senza un attimo di respiro. E però io la stessa domanda la rivolgo ad una donna che davvero le sue giornate ce l'ha senza un attimo di respiro. Giuliana Paoletti, fondatrice e presidente di Image Building, azienda leader nella comunicazione di impresa e nelle media relation e pianificatrice eccezionale. Buona domenica, buongiorno Giuliana. Buongiorno Paoletti. Buongiorno Maria, buongiorno a tutti, buongiorno a te. Ma è vero che per poter fare tutto bisogna pianificare tutto e riempirsi anche, se c'è un vuoto in agenda, riempirselo subito? È così che bisogna vivere o non è un po' troppo stressante? Ma guarda, sai, dipende da come ciascuna di noi vive lo stress. Io mi stresserei se non riempissi l'agenda minuto per minuto e devo dire che il riempirla già mi toglie lo stress, però mi rendo conto che insomma viviamo tutti una vita, delle vite veramente complicate, poi non sto a giudicare uomini o donne, ma noi ragazze un pochino più del resto dell'umanità, perché è abbastanza noto che culturalmente dobbiamo occuparci di tante cose che non sono solo il nostro lavoro quando abbiamo la fortuna di lavorare, ma sono l'organizzazione della casa, sono tante cose che non sto a raccontare perché credo abbastanza note. Quindi direi che non lo ritengo stressante, lo ritengo un dato di fatto. Quindi pianificare aiuta. Qual è un trucco che hai imparato, perché ormai appunto tu hai cominciato a lavorare giovanissima, il trucco che hai imparato negli anni, avendo ora un'azienda che conta quanti dipendenti? Siamo 50, di cui 45 donne. Ecco, allora il trucco che hai imparato per gestire 50 dipendenti, gli imprenditori anche molto importanti, le aziende molto importanti che sono i tuoi clienti, una famiglia, adesso i tuoi figli sono grandi, ma insomma sono stati bambini anche loro. Certo. Condividi con noi il tuo trucco. Ma guarda, non direi senza trucco, ogni tanto la mia assistente mi dice: guarda che c'hai due appuntamenti in contemporanea. Gli ho detto: guarda, aspettiamo fino all'ultimo, perché qualcuno lo disdice sicuramente, l'80% delle volte capita così. Ma questa è fortuna però, eh? No, diciamo che l'incastro e il non stressarsi e l'incastrare le cose funziona. C'è anche un'attitudine, io non sono un'anticipataria, per cui ti faccio un esempio: se andiamo in aeroporto a prendere lo stesso aereo delle 8 della mattina, io parto da casa alle 7, mio marito alle 6 meno 5, quindi è un fatto anche di calcolare bene i tempi. Poi certo ci vuole fortuna, ma non c'è una ricetta, c'è l'abitudine a incastrare le cose senza stressarsi. Questo sì. 45 delegare. Delegare, certo. 45 dipendenti donne, quindi hai diciamo un'esperienza anche di collaboratrici che, come tutte noi, come anche te, devono dividersi tra l'aspetto famiglia e l'aspetto lavoro. Qual è la cosa che in questi anni ti sei sentita ripetere più spesso e che risposta hai dato? Guarda, 40, è una domanda che a cui mi interessa molto rispondere, perché per risolvere l'organizzazione della propria vita ci vuole anche un pochino di modernità, brutta parola ma è così. Spessissimo io ricevo delle email, perché sono con la mania del controllo che mi contraddistingue, in copia su quasi tutti i gruppi di lavoro, amministrazione, personale, eccetera. Buongiorno, oggi devo andare 3 ore fuori perché porto mio figlio dal dentista. Allora io chiamo la persona e dico: scusami, ma tuo marito che fa oggi pomeriggio? E all'inizio, e questo succede da 33 anni, cioè da quando ho iniziato a mettere insieme delle persone per lavorare, e all'inizio mi guardavano tutti come se avessi detto: ho visto un marziano con i capelli verdi. E come lavora mio marito? Anche tu lavori? Certo, anch'io lavoro. Ma non potrebbe tuo marito accompagnare tuo figlio? All'inizio tutto sembrava strano, adesso queste richieste sono in netta diminuzione e spesso i mariti, i compagni, i padri di questi bambini fanno un pochino la loro parte. Certo, è un salto culturale difficilissimo. Avrete visto Maria la legge che su una maternità dove finalmente anche i padri hanno, credo, 5 giorni, una settimana, non so quanto gli è, ecco, stato, bisogna dato. Capire come reagisce il datore di lavoro quando il padre va lì e dice: mi prendo questi 5 giorni, perché sarebbe opportuno che entrasse, no, nella mentalità di tutti, che questo annuncio fosse accolto con un grande sorriso, una pacca sulle spalle. Una mia amica mi ha raccontato che lavorando in un grande studio d'affari anglosassone, quando andò ad annunciare che era in attesa della terza figlia, l'interlocutore, il suo capo, stava quasi per fare una faccia un po' così, ma poi si costrinse a tirare fuori un sorriso a 47 denti e a dire: complimenti. Bene, perché nella mentalità anglosassone, se non si fosse mostrato entusiasta, avrebbe passato i guai suoi. Invece in Italia non è ancora così. No, in Italia non è così, è lo stesso motivo per cui le maternità vengono prese con disappunto da alcuni, e d'altronde però se non facciamo figli il mondo finisce. Abbiamo, l'altro giorno è venuto fuori che c'è stato l'anno con meno nascite dalla storia, da quando si registrano le nascite, e questo è un problema molto più importante questa decrescita demografica di quello che si pensi, perché incide ovviamente su tante cose. Però detto questo, i figli si fanno perché è la natura che ci fa fare dei figli, perché ci piace fare dei figli, e quindi direi che vanno accolti con grande letizia. Il fatto che un marito dedichi del tempo a un neonato io lo trovo sacrosanto, succede in maniera è normale che succeda nei paesi del nord dell'Europa, ad esempio, è meno normale in Italia o in Spagna o in Francia, conosco meno quello che succede in Germania. Certo è che un'equa divisione dei compiti e ha voglia dire che la mamma è diversa. No, la mamma non è diversa, sì certo è diversa perché lo partorisce, però poi nell'allevare un bambino la mamma vale tanto quanto il papà, anzi la mancanza del papà crea spesso delle turbe che potrebbero non esserci in tanti giovani se i padri fossero più presenti. Detto questo, non si può schematizzare. Certo è che la legge aiuta, deve aiutare, un po' come le quote rosa, sembra una brutta legge, è una legge sacrosanta perché obbliga le aziende ad avere delle donne nei consigli di amministrazione. E poi si abituano all'idea che avendo delle donne in consiglio di amministrazione, delle donne preparate, le cose funzionano meglio, che è ormai un dato di fatto credo abbastanza acquisito. Giuliana Paoletti, l'ultima cosa che vorrei chiederti è, siccome appunto il filo conduttore di questa nostra puntata è la lotta contro il tempo e come riuscire a ritagliarsene un po' per sé, c'è qualcosa che tu fai per te stessa, alla quale non rinunceresti mai? Ah sì, è il mio tennis la mattina presto, e chi c'è, io alle 7:30 inizio e quindi è anche un orario che non disturba, diciamo, il resto della giornata, ecco, a questo non rinuncerei. Se qualcuno mi dice vediamoci alle 8, dico guarda facciamo 8:15, che non è gravissimo. No, insomma. infatti, bisogna ogni tanto mettere, no, un piccolo off limits. Di qui sì. Non si passa, ecco. Sì. Questo sì. è un altro suggerimento che diamo per cominciare a noi stesse, ma comunque anche ai nostri ascoltatori. Grazie a Giuliana Paoletti, fondatrice e presidente di Image Building. Buona domenica, grazie per essere stata a Nessuno Grazie Perfetto. A te Maria, grazie a voi. Grazie. E allora state un po' a sentire. Voi quali paletti mettete? Cos'è che vi salvate? Cioè, di lì non si passa. Ci sono quelle mezz'ore, quell'ora alla settimana che è solo per voi. Fatemelo sapere, sono curiosa. 828 12 12. Nessuna è perfetta. Nella dimensione del tempo, di come lo usiamo, rientra anche ogni tanto il fare ordine. Perché? Perché fare ordine magari in casa è come farlo nella nostra mente. Io per esempio adesso ho deciso che metto ordine in casa, butto via un po' di roba, e si vede che c'è una correlazione tra questo bisogno di ordine casalingo e il bisogno di ordine mentale. Tra l'altro questa cosa funziona al punto che, pensate, no? C'è questa giapponese Marie Kondo che ha ideato un vero e proprio metodo dell'ordine, KonMari, che ha avuto un grandissimo successo e ha approdato anche su Netflix con una serie dedicata. E noi cerchiamo di capire se c'è una relazione tra lo spreco di tempo e l'ottimizzazione di una gestione economica, e lo facciamo con un'esperta, Maria Letizia Polverini, autrice de L'arte del riordino, libera la tua casa e dai una svolta alla tua vita. Buona domenica Maria Letizia. Buongiorno anche a lei, grazie. Ecco, liberarsi di cose accumulate negli anni in casa è il primo passo forse per alleggerire la mente e anche per migliorare una bella relazione, diciamo, tra il tempo che è sempre poco e la possibilità di usufruirne. Certo, e purtroppo la tendenza all'accumulo ci accompagna un po' tutti e per tutta la vita, perché fin da piccoli teniamo da parte i nostri piccoli ricordi, i nostri segreti, andando avanti con la vita ci porta ad ammassare sempre più cose, fino a che ad arrivare a alcune forme negli anziani, addirittura un accaparramento compulsivo, insomma, quella diventa addirittura una patologia. Una, no? Patologia, sì. Ma noi perché, Maria Letizia, perché facciamo fatica a disfarci le proprie cose? Io per esempio ho delle giacche di quando ho cominciato addirittura la mia professione di giornalista, decenni fa, e non riesco a buttarle via perché dico: ma sono così belle. Ecco, bisogna evitare di arrivare a questi punti. Numero uno, sono così belle, non lo metto in dubbio, saranno state anche costose, ma il non utilizzarle e vederle appese nell'armadio, secondo me, raddoppia il dispiacere. Cioè, meglio trovare qualcuno che ce le possa rimettere in sesto o regalarle a un'amica. Inutile aspettare, se un abito ci sta stretto o ci sta largo, di dimagrire o di ingrassare. Ecco, io sono molto per il riciclo, non per il buttare. C'è un metodo di riordino? Esistono delle regole base da seguire? Più che regole, mi sentirei di chiamarli consigli. Il primo che io do è di non pensare di programmare, non so, una settimana libera per mettersi a riordinare la casa, perché questo tanto non succederà mai. Meglio trovare dei piccoli spazi, dei momenti tranquilli, può essere una domenica piovosa, non so, e cominciare a mettere mano ad alcuni piccoli spazi della casa. Si può cominciare anche da un cassetto, quindi io dico meglio poco, ogni tanto, e questo ci farà anche acquistare coraggio a poco, ci farà scattare una scintilla che poi ci permetterà di affrontare magari spazi ecco, più grossi. Per esempio, partiamo dai pensili della cucina, dove si ammucchiano padelle, pentole, che magari poi uno non usa per anni. Anche lì uno pensa: beh, adesso magari non le sto usando, ma un domani che si fa in questi casi? Qual è il meccanismo che bisogna far scattare nella nostra mente? Ma per esempio, prima cosa, bisogna eliminare le cose rovinate, perché spesso abbiamo bicchieri sbeccati, tazzine senza manico, a cui però magari siamo un po' affezionati, barattoli, perché forse, chissà, faremo la marmellata quest'estate, ma ne abbiamo una quantità tale che bisogna un po' attaccare questa situazione ed eliminare. E soprattutto anche per le pentole, eliminare i doppioni. L'ultima cosa che vorrei chiedere: qual è, Maria Letizia Polverini, l'effetto benefico del fare ordine in casa, in un armadio, tra i pensili della cucina o, altro tasto doloroso, nella propria libreria, nella quale magari si accumulano i romanzi che abbiamo letto negli ultimi 20 anni, 30 anni? È un problema che le nuove generazioni hanno di meno, perché la carta la usano poco, ma chi per esempio è stato uno studente giovane negli anni 80 c'ha ancora i suoi romanzi, no? Ecco, come rinunciare a quel Pier Vittorio Tondelli che c'era tanto piaciuto a metà anni 80? Dunque, secondo me i libri e le foto sono tra gli oggetti più difficili da eliminare, e quindi in genere io consiglio tenerli per ultimi. Ma l'effetto benefico su un riordino generale, poi torneremo a parlare dei libri volendo, è sicuramente una maggiore possibilità di muoversi negli spazi liberi, cioè migliorare la qualità della nostra vita, e perciò questo porta, secondo me, proprio un'energia positiva negli ambienti, nelle stanze, come negli armadi, eccetera, e quindi ci fa circolare meglio nella nostra casa, che a volte è ingombra di mille cose, quindi troppi mobili, quindi troppi soprammobili. E tornando a parlare dei libri, bisognerebbe, secondo me, fare una cernita. Ci sono dei libri che noi sappiamo che non rileggeremo mai più, e quindi almeno quelli vanno eliminati, non intendo buttati, ma portati, non so, a una biblioteca, a una biblioteca nelle carceri, per esempio. Quindi il pensare che la cosa va a rivivere in altri luoghi con altre persone, secondo me, è un effetto benefico per noi. Vero, è proprio così. E quindi, se questa è una domenica di pioggia da qualche parte in Italia, cominciate dal pensile della cucina che non avete più aperto o dalla libreria di casa. Grazie Maria Letizia Polverini, autrice dell'Arte del Riordino. Libera la tua casa e dai una svolta alla tua vita, pubblicato da Giunti. Buona domenica. Grazie altrettanto. Sì, la mancanza di tempo spesso coincide con la rinuncia. Vorrei tanto fare jogging, ma quella mezz'ora non me la posso permettere perché devo vedere i compiti di mio figlio che ieri sera non ho visto. Vorrei tanto fare yoga che mi fa tanto bene alla testa, ma salto sempre le lezioni, non ci vado perché ho altro da fare. Ebbene, nella riorganizzazione delle nostre settimane la tecnologia ci può aiutare. Eh sì, ci può aiutare, e proprio con lo yoga, che è, diciamo, una sicura fonte di rilassatezza, di aiuto, perché è certo, fare yoga aiuta a riequilibrare, a bilanciare le tensioni, il nervosismo. Perché dico che la tecnologia può aiutarci in questo senso? Perché è nata una app che si chiama Lo Yoga. E che cosa, in che cosa ci aiuta? Beh, ce lo spiega proprio Lorenza Minola, insegnante di yoga e ideatrice di questa app. Buona domenica. Ciao, Lorenza. Maria. Ciao Maria, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Lorenza, questa domenica noi stiamo cercando di ragionare intorno a un assunto che ci ha segnalato un articolo del Guardian. L'assunto è: il problema delle donne, il più grande nemico di noi donne, è la mancanza di tempo per noi stessi. Una delle cose che consideriamo superfluo è appunto dedicarsi una mezz'ora, un'ora per noi, mentre invece questo aiuterebbe a fare meglio tutto il resto. Con questa app che avete inventato forse riusciremo a fare yoga. Spiegaci come funziona. È un'app semplicissima che ti consente di inserire la località dove stai, quindi Milano, Roma, Firenze, quello che vuoi, selezionare il tipo di lezione che cerchi, quindi se vuoi una privata, una lezione di gruppo, perché poi anche le carte in studio, ma poi il bello dell'app è che ti porta gli insegnanti a domicilio, e a quel punto hai tutta una serie di opzioni di lezioni nell'orario e nel giorno che hai cercato. Prenoti, paghi e si presenta l'insegnante. Abbiamo selezionato insegnanti in tutta Italia, ne abbiamo già più di 120, l'obiettivo è di arrivare a 500 entro l'anno, in modo che sia coperto tutto il territorio fondamentalmente. Lorenza, da insegnante di yoga, perché consentirsi un'ora di yoga, oppure se uno non ama lo yoga, un'ora di ginnastica, un'ora di camminata, perché aiuta? Maria, aiuta. Allora, io ti porto la mia esperienza nello yoga. Un'ora di yoga alla settimana ti cambia il fisico, 2 ore di yoga alla settimana ti cambia la mente, 3 ore ti cambia la vita, nel senso che lo yoga ha la finalità di tenerti in salute soprattutto, quindi lavora sicuramente a livello di muscolare, di articolazione e tutto, ma lavora anche sugli organi interni e sulla pace, sul distacco che riesce a darci tramite quei minuti di meditazione che facciamo a fine pratica. Quindi è uno strumento fondamentale, tra l'altro avendo gli insegnanti di yoga che viene a domicilio, lo puoi fare anche con i tuoi figli, perché molti di noi insegnano a mamme e figli insieme, lo puoi fare in ufficio perché molti hanno una pausa pranzo di un'ora, non riescono a recarsi in uno studio yoga, quindi in questo caso si mettono insieme con 2 o 3 colleghi e hanno l'insegnante che va in ufficio, cioè è una grandissima soluzione in realtà. Grazie a Lorenza Minola, insegnante di yoga e ideatrice dell'app Lo Yoga. Perché ne abbiamo parlato? Perché dedicarsi del tempo aiuta utilizzare meglio anche tutto il resto del tempo che ci rimane. Grazie, buona domenica Lorenza, buona domenica, noi ci sentiamo se vorrete domani mattina, come ogni mattina da lunedì al venerdì, 8:20, stessa radio, Radio 24, portate le vostre brioche, i vostri caffè, ci saremo con Simone Spezia, ci sarò anch'io come sempre ogni mattina. Ciao a tutti, buona domenica!